Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Carissimi ascoltatori di Blue Radio Veneto, benvenuti, ben ritrovati. Inizia la programmazione serale di Blue Radio Veneto con Blue Time Live di oggi, 1° ottobre del 2013. Una buona serata vi arriva da Flavio Bilato e da Maurizio Calzavara, che conduce insieme a me questa trasmissione. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, ancora musica live, proprio degna di una L maiuscola, per presentare un album che sta già riscuotendo un buon successo, e con noi questa sera c'è la protagonista di questo album, di questa musica che vogliamo farvi conoscere fino alle 23, diciamo, assieme a un graditissimo ritorno. Quindi diamo ancora una volta il benvenuto a Deborah Petrina. Buonasera Deborah. Buonasera a voi. Allora, tutto bene? Tutto bene. Non ti chiedo se hai fatto buon viaggio, perché avrei fatto un paio di chilometri dal Siena. No, troppi, però già troppi. 200 metri. 200 metri, benissimo, assolutamente. È da ricordare che appunto Deborah Petrina è la musica made in Italy, ma anche made in Padova. Esatto. in questa made situazione. Made in quartiere. Made in quartiere. Dietro l'angolo. Dietro l'angolo, però abbiamo trovato un'artista già rivelatasi di spessore internazionale. Poi nel corso della trasmissione capirete anche il perché. Già avevamo avuto ospite con noi Deborah Petrina per la presentazione del suo album targato 2009, in quel caso si parlava di Indoma, questa volta un album che porta il tuo cognome, quindi Petrina. Allora, Deborah, innanzitutto, il nome dell'album, valutato fino all'ultimo? Sì, è stata molto, molto sofferta la scelta, sì, perché non mi arrivava nessun titolo migliore. Allora, benissimo. Vabbè, allora vuol dire che deve chiamarsi. E quindi, anche perché Petrina, così, solo il cognome è un qualcosa... Sembra un nome, sembra quasi un nome, però... Spesso mi hanno sempre chiamato Petrina anziché Deborah, per quel motivo là, no? Ecco. Un po' per quello mi sono sentita alla fine, Petrina. Petrina. E salutiamo anche chi è venuto con te, accompagnatore in tutti i sensi, anche con la sua chitarra, quindi diamo il benvenuto anche a Mirko Di Cataldo. Buonasera. Ciao, Mirko. Buonasera. Ecco qua, quindi ogni tanto sentiremo anche la sua voce, oltre che la sua chitarra, per commentare insieme le fasi salienti della costruzione di questo CD. E allora, Deborah, per far sì che i nostri ascoltatori capiscano già di che musica stiamo parlando, direi di iniziare subito a sfogliare l'album, e in questo caso iniziare con qualcosa di live, acustico, in questa serata, visto che tu sei munita di tastiere multi effetti e con la chitarra di Mirko Di Cataldo. Cosa ci fai ascoltare? Vi proponiamo Princess in una versione molto più, diciamo, minimale rispetto a quella del disco. Ecco, e poi conosceremo anche la versione un po' più completa e corposa, che riguarda appunto il CD. Allora iniziamo subito con Petrina, questa è Princess qui a Blue Radio Veneto. Take me with you, I will learn to walk like you, the hillsides. Take me with you, I will sleep above your step, made steady for me. Take me with you underneath those skies. Prepared for me. Princess of the mountains, I was princess of the mountains. Princess of the mountains, I was princess of the mountain. Like you. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. E ci siamo ascoltati questo primo pezzo per dare subito una dimensione a quella che è la musica di Petrina, Petrina che abbiamo qui in studio con noi per appunto farci ascoltare i pezzi del suo disco e anche presentarli in una versione diciamo radiofonica, acustica. In questo caso abbiamo ascoltato Princess, che è una specie di una canzone d'amore, se vogliamo, una canzone di... scusa Deborah, è una canzone d'amore che parla di qualcosa che vuoi vivere assieme alla tua persona amata, in questo caso, no? Secondo me, non so se sia, ecco. In realtà parlo di mio padre. Ecco, vedi? E quindi parlo di mio padre che non c'è più, tra l'altro. E quindi in questa canzone un po' racconto questa cosa, perché gli chiedo appunto di chiamarmi di nuovo, di chiamarmi col mio nome. Vabbè, sono vicende diciamo molto intime, sì. E sono riuscita dopo molti anni a scrivere appunto di mio padre. Quando ero piccola mi portava in montagna sulle sue spalle e la canzone parla di questo, del fatto che mi sentivo una principessa, certo, delle montagne. Però in questa canzone rivivi quella che è l'allegrezza che ti portava appunto in montagna con lui, quindi assolutamente è un ricordo vivo e ancora allegro, i salti, lui mi chiamava Capriolo, no? Perché ero sempre davanti agli altri, facevo sempre salti sulle rocce, quindi però c'è un po' questa idea di salti. E da Capriolo poi sei diventata anche la Princess of the Mountain, come dici qua, esatto. Quindi la principessa delle montagne. Anche se qua la melodia è tirata come una corda e tendi a spezzarla, arrivi fino alla fine, non la spezzi ma tenti di spezzarla, secondo me, in questa versione che ha dato con Mirko. Sì, è vero, la melodia non è una melodia lineare, tra parentesi, tra virgolette. Certo, sì, perché è una melodia proprio a salti. La salti, sì, esattamente. E la spezzi, la vuoi spezzare, certo. Però... sono quarte. Arrivi fino al limite, poi ti fermi. So che tu mi fai sempre le domande. No, è vero. Si vede che non sei nuova dell'ambiente, quindi conosci già Maurizio e quindi sai già le domande che ti potrebbe fare, e per questo ti sei preparata a dovere. Vabbè, e allora nel corso della trasmissione appunto avremo modo di sentire sia questa versione acustica sia quella versione un po' più elettronica, diciamo così, di Princess, perché questo è un disco che parla di jazz, che parla di esperienze acustiche, di nuove diciamo programmazioni vocali, se vogliamo, quindi esperimenti che comunque hanno avuto un effetto positivo, e chi avrà modo di entrare in possesso del disco di Petrina capirà tutti i processi diciamo musicali che ci sono all'interno, anche perché come si dice spesso, questo non è un disco da ascoltare una volta solo, quindi il famoso mordi e fuggi, è un disco che ogni volta nasconde sempre delle pieghe diverse, quindi è consigliato sempre comunque l'ascolto in cuffia. So, magari adesso in radio vi diamo proprio a grandi linee quello che potrebbe essere l'effetto. Se avete già la cuffia, buonasera, state con noi. Noi ascoltiamo tutta la trasmissione in cuffia, naturalmente, da conduttori, ci sarà modo anche appunto per entrare in possesso del disco. Anzi, diciamo subito come si può fare, Deborah. Allora, c'è un sito nuovo che si chiama www.deborapetrina.com, dove ci sono anche tutti gli estremi per la pagina dischi, per acquistare i dischi. Oppure magari chi è un po' più svezzato in internet può andare direttamente su Bandcamp /Deborah Petrina. Comunque in ogni caso si arriva sempre. Si arriva sempre, diciamo, all'obiettivo, ecco, si arriva. Basta scrivere anche solo Petrina. Io ci ho provato una volta arrivano una serie di notizie legate appunto a Deborah e alla sua bella musica. E adesso noi continuiamo con l'ascolto di un altro pezzo, questa volta da CD, perché diamo spazio alla traccia numero 5. Se vuoi dire solo il titolo, Deborah, poi... Sky Stripes in August. Ecco qua, non sarei riuscito a fare di meglio io. Benissimo, ci ascoltiamo qui a Blue Radio Veneto, poi torniamo a commentarne insieme. August sky stripes in August wait wind on my face Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato il primo pezzo da disco di Petrina, questa nuova uscita di aprile del 2013, sta andando molto bene questo disco, anche a livello internazionale si fa sentire. in giro. Abbiamo ascoltato Sky Stripes in August con un pezzo che poi è stato anche, diciamo, riveduto in un secondo momento in una traccia che compare alla fine del disco. Come mai, Deborah, ci spieghi la ripresa di questo pezzo in un altro formato comunque? Questa è una storia abbastanza particolare. Dunque, un po' di anni fa sono entrata in modo del tutto casuale in contatto con David Byrne, che mi ha messo nelle sue radio playlist, e anche questo l'ho scoperto in modo molto è stato tutto casuale. E niente, lui praticamente mi ha parlato di questo Jerick Bischoff, che è un musicista fantastico di Seattle, assolutamente geniale, che ha un background rock, e lui è bassista, però anche chitarrista, tastierista, e poi a un certo punto, diciamo a 30 anni, si è messo a comporre per orchestre, strumenti classici, quindi e quindi ha lavorato anche con David Byrne. E quindi David Byrne me l'ha diciamo consigliato. Ti ha fortissimamente spinto verso, sì. Questa è la ragione. Verso questo musicista. Io gli ho mandato due brani piano voce, uno di quali era Sky Stripes in August, e lui ha fatto una bellissima, fantastica orchestrazione. Come ha registrato questi strumenti? È andato casa per casa da ciascun musicista. No. Con lo bicicletta, sì, con lo zainetto, con i microfoni, e poi ha assemblato tutte queste tracce in una grande orchestra. Poi Mirko qui vicino a me ha mixato tutto quanto. Io poi ho rifatto il piano, ho cambiato delle cose, ho registrato la voce, e sono venute fuori due canzoni. Una sta in questo disco, l'altra è ancora inedita, che sono piaciute molto a David Byrne, che le ha addirittura proposte alla Non Such Records, esatto, che è una delle etichette più grosse. Poi la Non Such ovviamente è impegnata fino a 2000, te lo farà sapere, 25, quindi. L'importante è che ti faccia sapere poi. Quindi, ecco. E comunque sappiamo, David Byrne ti aveva conosciuto, diciamo, musicalmente parlando, ancora non vi conoscevate di viso, con Indoma giusto, l'album del 2009, esatto. E lui aveva pubblicato Fuori Stagione e Babel B in una playlist che si chiamava Brasil, pensava fossi brasiliana poi sì, perché non poteva pensare che dall'Italia potesse arrivare un qualcosa di così bello e forte. Due tournée forse, in Brasile e in Italia, aveva scambiato un po' i dischi, non lo so. Sì, sì. E da lì insomma è nato tutto quanto. Possiamo dire che questo pezzo che abbiamo sentito adesso, sì, no? La versione strumentale, la versione normale, sì, è la chiave di volta di tutto il disco. Ci sono tanti colori in questo pezzo. Sì, sì, perché parte con la chitarra e con anche un synth, quello che sentite, quel fischietto all'inizio è un synth, che poi diciamo diventa sempre più preponderante fino a che arriva tutto l'impatto della ritmica col basso e la batteria, e quindi il pezzo poi ha proprio un bel tiro, diciamo, anche grazie ai musicisti Gianni Bertoncini, Alessandro Federigo, Mirko Di Cataldo e Piero Bittolo Bon al sax. Sì, perché ha avuto anche una serie infinita anche di ospiti che hanno tanti, collaborato con te. Alcuni diciamo compaiono in più tracce, sono amici fedeli, fra cui appunto quelli che ho citato, altri compaiono magari in qualche traccia soltanto, però compresi diciamo quelli che ci sono nella versione digitale del disco, che ha due tracce in più, arriviamo a 25 musicisti. Ma Mirko ha arrangiato questo pezzo in finale alla... L'hai arrangiato te? O hai arrangiato solo le tracce orchestrali? Dimmi, vieni vicino al microfono. Che parli di Jerick o parli di... No, parlo di questo. Ah, di questo. L'idea della costruzione del pezzo è nata tua, poi l'hai arrangiato te alla fine. Diciamo che... Vai un po' più vicino, ecco, perfetto. No, diciamo che gli arrangiamenti sono sempre stati, diciamo, frutto del lavoro di Deborah. Io ho contribuito... Cioè l'idea è stata Deborah nell'arrangiamento. Dare il mio apporto, ma sì... Diciamo che questa è stata arrangiata insieme. Ecco, no, inviterei Mirko a parlare più vicino al microfono. Sì, ecco, grazie. Ecco, perché più vicino. Ecco. Ecco, grazie. Quindi è stata fatta insieme praticamente. Sì, l'idea era partita da Deborah, poi tu hai dato una mano. Io ho dato una mano, diciamo, delle parti chitarristiche. Però sì, beh, ma anche come in tutti i pezzi è stata una cosa... Ma siccome avevamo detto che questo è il pezzo cardine, il pezzo più importante, secondo me, no? più significativo, per dare le diverse facce di Deborah. In giro iniziale sì. Ecco, Il giro iniziale non fa una canzone, mettiamola così. Infatti io facevo un altro giro, adesso ve lo faccio, era questo. Eccolo qua. questo era il mio giro. Un po' alla Kate Bush, secondo me. Esatto. Sì, leggermente. Sì. Poi sì, poi a volte succede che questi pezzi vengono riarrangiati perché magari li faccio al piano solo e allora magari uso il pianoforte preparato e quindi cambio anche gli arrangiamenti. Che è la cosa più divertente poi, quella di trasformare il pezzo a seconda delle possibilità che ci sono dal vivo. Già che ci siamo, appunto, dal vivo, come preferisci essere? Da sola sul palco o con la tua bella orchestra, diciamo, il tuo bel gruppo? Questa è una bella domanda, come dire quale figlio preferisci, perché sono tutte manifestazioni diverse sì. E tutte molto hanno una loro particolarità. Quest'estate abbiamo fatto molti concerti in quartetto. Per me era una cosa nuova perché per la prima volta c'era, diciamo, un volume anche sonoro molto rock sul palco, anche perché abbiamo un bassista che ha un background assolutamente rock, quindi avevamo volumi molto consistenti e ci siamo molto divertiti, insomma. Poi quando sono da sola è un po' più intimo, un po' più curo, che ne so, più l'aspetto sperimentale del pianoforte. E adesso invece abbiamo una lunga tournée in duo e anche quella è una cosa nuova, perché dovremo anche lì riarrangiare, rifare anche dei pezzi nuovi probabilmente e usare più strumenti. Mirko avrà delle percussioni, anch'io avrò le percussioni, io adesso faccio anche un paio di pezzi con la chitarra, quindi insomma la crisi e il fatto di dover andare in poche persone serve sì. Anche un po' a sviluppare delle idee. Certo, assolutamente sì, anche perché ho capito che ogni concerto ha una propria identità, ti piace variare, diciamo, quanto... Sì, diciamo che è un po' necessità, è un po' virtù e necessità. Certo, assolutamente sì. Benissimo, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa è Blu Radio Veneto all'interno di Blu Time Live fino alle 23 con Flavio Bilato, Maurizio Calzavara. Questa sera ospite Deborah Petrina per la presentazione del suo nuovo album. Insieme a lei c'è Mirko Di Cataldo e alla chitarra. Allora, un altro pezzo, questa volta da CD, quindi diamo spazio alla traccia numero 9 che si intitola Dog in Space. Eccola qua. Into the neck of the flattering hand, the geezer in the corner in the number of 10. He watched me falling in a pit full of water. By every winged creature, it was called the slaughter. He heard me play, and he was so cool. He liked the piano, and he came over soon. Listening to the music, chewing the carpet, Mama yelled to me, "Send away the bat." He was so angry with the neighbors. He jumped every fence, better than a frog. He curled up like a snake on his rug. He was so happy, he pissed on my lap. But no one knows, he was so sweet. He gave me a walk away of only 2 feet. But when he met his very first wife, he could defend her even with the knife. No one knows, he was so shy. He stared at me with only one eye. So many hair, he left in my car. As if I were a star. Dog in space, fly with your face on the wind. Dog in space, fly with your face. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. The ball, but he tried to catch a life on the wall. He sang with me in the highest notes. We were the duet of the breaking fields. He was so sad when I left him alone. As soon as I went away on my own, I found him running behind my back. He was like his owner, he never went on strike. But no one knows, he was so sweet. He gave me a walk away of only 2 feet. That when he met his very first wife, he could defend her even with the knife. No one knows, he was so shy. He stared at me with only one eye. So many hair, he laughed in my car. He gave me a welcome as if I were a star. No one knows, he was so sweet. He gave me a welcome with only 2 feet. But when he met his very first wife, he could defend her even with the knife. Dog in space, fly with your face on the aware that in space fly with your face. In space, fly with your thighs on the wind. Dug in space, fly with your thighs on the wind. Dug in space, fly with your face. When dug in space, fly with your face on the wind, on the wind, on the wind, on the Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Ci siamo ascoltati anche questo pezzo tratto dall'album Petrina. Lei è Deborah Petrina, si intitola Dog in Space. E adesso, visto, ne approfittiamo che Petrina è qui con noi per chiederle subito una cosa. Allora, ci sono diversi cani in questo album. C'è questo Dog in Space, di cui ci parlerai adesso, e poi c'è anche Vita da cani, invece, una canzone che comunque è cantata invece in italiano. Allora, c'è qualche attinenza tra le due canzoni, Deborah? Assolutamente sì, perché si tratta dello stesso cane. Ah, dello stesso cane, e sì. Praticamente dico le stesse cose, o quasi, sì? Prima in italiano e poi in inglese. In inglese racconto un po' di episodi, un po' di più. Mm. Era un cane che teneva mia mamma, ma in realtà era come se fosse mio, ed era un cagnetto che aveva un po' una personalità da Dr. Jekyll e Mr. Hyde, nel senso che era molto piccolo, affettuoso, però quando vedeva dei volatili diventava un demonio, sembrava avesse una potenza misteriosa, e addirittura una volta è riuscito a mettere in un angolo 10 oche e far cadere me dentro un canale quindi, perché vedi, cercavo di rincorrerlo. Quindi vabbè, è stato un cane che poi è morto, come tanto, come muoiono i cani, sotto una macchina, ecco, da giovanissimo. E ho scritto, diciamo, questa canzone ha avuto tre versioni, è stata veramente una canzone tormentata. Effettivamente la morte del cane mi ha toccato molto. E comunque Dog in Space vuol dire, sì, che te lo immagini ancora nello spazio, sì, che dove vola e hai il vento in faccia, questo dice il ritornello, sì, sì, sì. Lo immagino così. Mirko giustamente parlava che può essere un musical, poteva fare colonna sonora di un musical, è molto divertente, è molto accattivante, è molto, sì, però sì, diciamo, sì. Mi sembra di capire, Maurizio, che dimmi, più divertenti sono le canzoni e come le esprime la Deborah, più di argomenti che le toccano il cuore. Esattamente, no? Sì. Dottor Jack e Mr. Rider, certo. E in questo caso c'era proprio un'atmosfera jazz, sì, swing, proprio, sì, da musical, giustamente, sì, sì, sì, quindi sì, sì, prossimamente ci sarà anche un musical, no? Non so se sono in grado. Comunque, vabbè, allora ne approfittiamo per salutare anche chi ti vuole salutare. Quindi Gino, l'ascoltautore, certo, che ti ha conosciuto. Ciao, e sì, sì, quindi dice assolutamente voglio salutarla. Poi ancora Jacopo Jacopetti, sì, jazzista padovano che ben ti conosce, sì. E poi salutare anche chi ha portato queste due missive, ovvero Agostino Spolaore, che sentiamo abitualmente il giovedì sera. E poi ancora sempre un brevissimo spazio preso da Facebook, ci sono da salutare anche Lilli e Cinzia che ci stanno ascoltando. Lilli, sì, sì. Ciao Lilli. Piace la trasmissione. Benissimo, allora state anche voi in ascolto. Ricordiamo che questa trasmissione è ascoltabile sia tramite le nostre frequenze abituali, quelle via etere, ma anche tramite lo streaming audio. Basta andare all'interno del nostro sito internet www.bluradioveneto.it, andare nella pagina riservata a Petrina e cliccare ascolta la diretta. Poi aggiungo un'altra cosa: questa trasmissione la stiamo registrando, così con errori compresi, e poi naturalmente sarà, gli errori sono nostri, Deborah. Non ci sono errori per te. Assolutamente. poi verrà appunto sistemata all'interno del nostro archivio sonoro, quindi come podcast, per riascoltare questa intervista e poi abbinarla a quello che invece l'entrata in possesso del disco, perché è bello vedere anche il disco, poi vedremo anche le proprietà cartacee, si può dire così. Benissimo, allora Maurizio, sì, c'era ancora qualcosa che ti turbava positivamente parlando? Mi turbava positivamente, sì, che Deborah praticamente ha confessato vuole fare musical, quindi mi turbava musicalmente questa cosa. Preoccupato? No. Le tue parole con questa musica di poliziesco, sì, anni, sì, 70, sì, mi mette una certa ansia. Sì, no, sì, ma interessante, sì, lo svolgimento. Perché ci hai messo dello swing in questo pezzo? E ti è venuto così? Mi è venuto così, non so perché, non lo so, pensavo al cane forse, a questi episodi che erano divertenti, poi sì, erano tutti, se uno guarda un po' l'inglese sono tutte scenette, sembra proprio un telefilm. Io ci ho sentito un po' anche i Beatles qua in questo pezzo, secondo me. Darsi, sì, sì. Nella, sì, parte, sì, centrale, un momento, ricordavo qualcosa dei Beatles. Ma questo lavoro lo fanno i critici, questo di trovare le somiglianze, noi poveri che facciamo le canzoni. Ma io sono mica un critico. No, diciamo che c'è chi sa suonare e chi sa criticare, no? Esatto. Caso là, cioè, Maurizio alla seconda parte. Sì. Benissimo, allora un altro pezzo, perché dovete sapere che Petrina ci ha colti in contropiede, perché ci ha fatto ascoltare il disco e poi ci presenta dei brani che non abbiamo mai sentito prima. E fai bene, perché sicuramente saranno delle anteprime per quello che potrebbe essere il nuovo disco. Sì, e quindi allora, se sono presi parecchi pezzi vuol dire che sarà imminente. Sì, un po', anche perché non è molto semplice suonare in due i pezzi del disco, a parte quelli che abbiamo scelto. E quindi vi propongo questo At the Court of Kublai Khan, che è un pezzo tratto in realtà da una colonna sonora che ho scritto per un documentario su Padova. E il testo è una traduzione in inglese di una strofa di Italo Calvino della Città Invisibili. Basta. Bene, allora ce l'ascoltiamo qui a Blu Radio Veneto, At the Court of Kublai Khan, Deborah Petrina. Seven wonders. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Abbiamo ascoltato questo bellissimo, bellissimo pezzo dal vivo, At the Court of Kublai Khan, come ricordava Deborah Petrina, che l'ha cantato e suonato qui in diretta accompagnata da Mirko Di Cataldo, e riguarda appunto questo romanzo di Italo Calvino. Quindi non vi forniamo solamente notizie musicali in queste trasmissioni, ma anche dei motivi per leggere dei libri con la L maiuscola, come si usa dire. Questo libro, appunto, Le città invisibili, datato 1972, che parla appunto di questo colloquio tra Kublai Khan e con Marco Polo, che gli fa vedere degli orizzonti nuovi, a volte anche inventati, di quelle che sono le città dell'Occidente a confronto di quelle dell'Oriente. E quindi, per saperne di più, acquistate anche questo libro, non si sa mai, ne potremo avere bisogno. E quindi grazie anche a Deborah, che ce l'ha fatto conoscere, per chi ancora non conosceva la canzone libro. Come dicevo, sì, veniva da un documentario su Padova, perché la frase dice: di una città non ti piacciono le 77 meraviglie che può avere, ma la risposta che può dare è una tua domanda. Quindi mi piaceva com'è. Musicalmente, però, secondo me posso ho tre riferimenti. Innanzitutto Terry Riley, questo c'è sicuramente, che gira, che ruota, assolutamente. Ci sono anche i Cosmici Tedeschi, un po' Yasser Attempla, il Popol Vuh, e poi c'è anche un po' di Canterbury alla fine, con qualcosina. Cosa dici, Flavio? Un po' di Canterbury, no, beh, c'è sì, senz'altro. Vedo che ho sentito tre riferimenti. Si è tirata indietro dal microfono, perché ho sentito questo, allora l'ho detto. Beh, Terry Riley, inchino subito. Il tuo guru assoluto, che veleggia sempre. Questo veleggiava molto in questo pezzo. Sì, è vero. Una cosa positiva, certo. Precisamente. Come no? Sì, sì. E quindi diciamo, Maurizio, hai visto, Deborah, è riuscito a smontare questo pezzo e rimontarlo, anche abbinandolo a nomi che è magari... È tremendo. È vero, veramente, a volte mi domando mi da che parte si spegne. Mi ha ispirato questo pezzo, Flavio, queste dimensioni un po' fuori del normale, ma in senso positivo, assolutamente. Assolutamente, sì. E quindi questo, Deborah, ci dici che potrà finire all'interno di un prossimo progetto. Sicuramente me lo auguro. Sì. E comunque lo stai già suonando, allora, anche. Sì, sto già suonando altri pezzi, diciamo, inediti, perché è un po' sempre così, cioè i dischi sono sempre vecchi quando escono. Sì. E l'artista ha sempre già fatto altre cose nel frattempo, e quindi non può tornare indietro, insomma. Alla fine sì, li propongo nei concerti, anche quest'estate in quartetto le ho proposte. Benissimo, allora pezzo sempre simile, come lo puoi proporre? Non in due solamente, una band allargata, l'idea potrebbe svilupparsi, anche parliamo anche con Mirko, che ha il microfono. Per questo pezzo io sentirei più delle sezioni di archi, più che batteria, più che sezioni rock. Tu cosa dici, Mirko? Ma io userei un vibrafono. Ecco. Perfetto. Ed è molto chiaro. Sì, in effetti, adesso che lo dice, il vibrafono, immaginandosele, potrebbe starci. O le marimba. Perché vabbè, una sonorità simile anche a quella che... Sì, oppure aggiungere anche qualche strumento classico dalle parti cinese o... non saprei adesso, forse voi ne sapete più di me di cosa stanno suonando da quella parte. No, non lo so. Molti sì? Sì, la mellofoni, kalimba. Sì, la kalimba, sì, ecco, queste cose qui. Cose così. Benissimo, allora ricordiamo Petrina con questo suo nuovo disco, una copertina ben curata, e che qualcuno si sta chiedendo con che colore di capelli è arrivata Petrina questa sera, visto che in alcuni video compare con, non so, capelli viola, capelli verdi, capelli rossi, come nella copertina, con tanto di ventilatore che gli dispara per aria. Allora, questa sera Petrina... Ah, non lo so, dovete dire, siete voi che mi vedete, io non mi vedo. No, ancora non ti vedono, però diciamo che prossimamente saranno anche pubblicate delle foto riguardo la serata, per cui si potrà capire che Deborah questa sera ha i capelli rossi. Okay. Ecco qua. Benissimo, allora ricordiamo appunto la copertina con il volto di Deborah con tanto di ventilatore e capelli scompigliati, ripresa anche in altre situazioni sempre a capello, diciamo, sparato, si può dire così, no? Ecco, bene. E poi all'interno del disco si possono trovare i testi non racchiusi in un libricino, ma ha voluto fare le robe in grande, li ha racchiusi in un poster. Esatto, però... così uno se lo attacca. Assolutamente sì. Per cui quando è necessario leggere i testi basta solo girare il quadro. Esatto. No? In questo caso, bellissimo. E poi viene fuori, comunque è un bellissimo vestito quello che stai indossando, Deborah. Mm-hmm, sembra quasi una perigina. Si può dire così. Sì. Ecco, vabbè, allora segniamo. Per via del fatto che c'ha dei buchi? Per via del fatto che ha così con questo, sì, ha delle celle, poi no. c'è questa coda lunghissima, no? Che è come un pungiglione, vuoi dire? No, niente pungiglione. No. Comunque complimenti per la foto. Ma non è rosso e arancione e nero, comunque è bianco. Non importa, okay. Inventiamoci anche queste api, dai. Allora, chi ti ha curato il libricino? Allora, questo è un grafico di Pordenone. Mm. Alberto Moreu. Si chiama Alberto Moreu. Grazie Mirko. A lui ha ideato anche quel bellissimo carattere, quella P che tu hai letto come una sì, P di, sì. Tutta piena di riccioli. E ha fatto un lavoro molto artistico, secondo me. Molto, molto bello, assolutamente. Anche perché questa, la copertina è anche elegante nell'aprire, nel prendere il disco e poi anche nell'estrarre appunto quel, diciamo, contenuto dove i testi si abbinano con questa grande fotografia di Petrina. Allora, noi proseguiamo ancora con quella che è la musica, questa volta diamo spazio ancora al CD e ascoltiamo, tanto per capire quella che è la differenza delle due versioni, quella che prima avevamo ascoltato in versione acustica, quindi Princess, che ritorna appunto nella versione da CD. Eccola qua. Blue Time. Take me with you, I will learn to walk like you, to climb the hillsides. Take me with you, I will sleep above your step, made steady for me. Take me with you underneath those skies safe you have prepared for me. Princess of the mountains, I was princess of the mountains. Princess of the mountains, I was princess of the mountains. Take me with you, I will learn to walk like for me. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. E così ci siamo ascoltati anche questa versione da disco di Princess, a cantarla Petrina con il suo gruppo in questa situazione così particolare. Sì, qui c'era anche John Parrish. Eccolo, sì. Quando arriva la chitarra solista era lui, quindi ha avuto anche l'onore di avere questo grande ospite. E quindi sì, perché abbiamo parlato di molti collaboratori, qualcuno l'avevi tenuto appunto in di riserva, nel senso di che volevi inserirlo proprio in questa situazione. Allora, di questo album, ma anche del precedente album, si era parlato benissimo del tuo modo di fare musica, e ti abbiamo anche scoperto, oltre che qui sulla piazza di Padova, anche presente su molti giornali del settore, che si sono proprio hanno avuto delle critiche positivissime riguardo a quella che era la tua uscita discografica. E in particolar modo c'è chi ha scritto molto bene di te, che è il direttore di Gem, quindi Ezio Guaitamacchi, che ne approfittiamo per salutare, e anche lui esprimeva il desiderio di salutare te e di augurarti ancora una volta buona musica. Grazie, ricambio con tutto il cuore. Maurizio. Sì, perché sai, perché è stata una novità all'epoca quando Ezio ha fatto una recensione di questo disco. È stata una novità perché Petrina, Deborah, musicalmente era una novità nel 2009. Hai scosso, dal punto di vista positivo, i critici nostrani. Hai dato una scossa, come si dice. Hai illuminato la critica su certe cose che in Italia non si facevano. Cosa dici? Sì. Beh, insomma, più di così. E che a un certo punto dell'intervista, mi permetto solo di citare una piccola parte scritta da Ezio relativa a Petrina, lui ti chiedeva: ma vieni ad aiutarmi a fare uno spettacolo dedicato a Joni Mitchell? E tu gli hai detto: quando vuoi. Ecco, ah sì, non l'ha mai fatto lui questo spettacolo. Non l'hai mai... Però, appunto, non l'ha mai fatto effettivamente. Può essere che ci sia, che magari un giorno o l'altro ti senta arrivare la telefonata della serie: ecco qua, è giunto il momento. Benissimo, quindi abbiamo salutato anche un grande critico musicale, oltre ad essere un amico. Abbiamo avuto molte volte la fortuna e l'onore di intervistarlo telefonicamente riguardo anche a quelli che sono stati i libri che sono usciti appunto di Ezio in questo periodo, libri che parlano sono anche un po' gialli nell'ambiente della musica. Maurizio, se li hai letti tutti, vero? Sì, li ho letti, non propriamente tutti, però ne ha letto una buona parte. Assolutamente. Beh, Ezio ha una bella penna, scrive bene, è molto semplice, è un personaggio che ha una cultura musicale vastissima, ma si capisce immediatamente. Ti tiene testa, insomma. Ah, sì. Io devo solo imparare, assolutamente, da tanti altri, e da Ezio particolarmente. Benissimo, allora siamo giunti quasi alle 22, quindi ancora un'ora abbondante per stare insieme ad ascoltare la musica di Deborah Petrina. Questa volta direi di continuare con la programmazione musicale ascoltando un altro pezzo davvero bello anche nella versione CD, ve lo posso assicurare, e non l'ho mai ascoltato in versione acustica, e quindi Deborah nella versione minimal acustica. Neanche noi. Ecco, bene, quindi la prima volta che ve l'ascoltate, non ci credo, però vabbè, ascoltiamo questa Denti, eccola qua. Di una rima, sono come tu sei, sono come tu sei, sono sfidare le forze di gravitazione, aspettare gli avanzi di un'altra illusione. Attenti, attenti, se i sogni sono segni, se li perde troppo tardi. Attenti, attenti, pratici, bisbetici, dietetici, eretici, mimetici. Sono come tu sei, sono come tu sei, innomabili, insaziabili, illicitaci, chiamami. Sono come tu sei, sono come tu sei, sono i miei tempi, un dì saranno santi. Senza far rumore, i merletti alle signori, raggi petti coi ferretti e i baffetti di tutti i tipi. La sottana delle dee, 100 balle e poche idee. Più folle, folle, folle, folle. Sono come tu sei, sono come tu sei, aggrinti fino al collo come i merli di un cluster. Sono come tu sei, sono come tu sei, sono i miei denti, se ti morto sono contenti. Guarda i miei denti, guardami dentro, presente, passato, imperfetti, i miei denti macchiati di rosso, ballano il funky, dichiarano guerra colletti bianchi, dichiarano guerra colletti bianchi, dichiarano guerra, sono i miei. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. È proprio il caso di dire che in questo pezzo Petrina ha tirato fuori i denti, perché è veramente una grande musicalità, tutta con questo tema dei denti che nasconde quello che è un ringhio di sfida e di rabbia nei confronti di una società che si vorrebbe andasse in una certa maniera, in realtà va in maniera tutt'altro che limpida ed efficace, perlomeno come si vorrebbe. Beh. E quindi c'è proprio bisogno di ringhiare. Questo l'hai proprio detto benissimo. In realtà questa canzone ha avuto un'origine un po' strana, un po'. Avevo avuto una commissione un po' strana da un giornalista, visto che parlavamo di giornalisti, che voleva fare questa compilation di anatomia al femminile, coinvolgendo molte cantautrici, e ad ognuna era stata affidata una parte del corpo, quindi ognuna ha scritto la canzone sulla bocca, sugli occhi, sui capelli. E quando è arrivato a me ha pensato che potevo scrivere una canzone sul sedere, perché diciamo che sopravvalutava la mia autoironia in questo caso. E io gli ho detto no, mi spiace, non ce la faccio. E allora, stiamo più su, hai detto. Come? Stiamo più su. Sì. Infatti il giorno dopo ero dal dentista, aspettavo che l'anestesia facesse il suo effetto. Quando il dentista ti lascia da sola quei 5 minuti in cui dove ascolti puoi... questo veleno che entra nel tuo corpo, puoi solo mugnare in quel momento, no? E pensavo che avevo dei denti con molte storie da raccontare, perché in effetti dal punto di vista dentistico i miei denti hanno insomma delle particolarità, ad esempio, forse non è il caso qui di attenere, cioè, comunque vabbè. Anche perché quando si parla di denti mi frizzo sempre alla bocca, non so perché. E quindi dai dettagli diciamo ortodontistici eccetera eccetera sono passata a quelli metaforici, quindi è diventata una metafora quella dei denti e delle immagini correlate. musicalmente, e quindi, possiamo dire che è un punk contemporaneo questo. Ah, oh, sì, nelle mie idee era più un rap, no? Un po' io l'ho sentito come sì. Punk stasera. Contemporaneo. Sì, in effetti la chitarra, chitarra così, di Mirko era molto, esatto, punk, sì, molto sì. Percussiva. Diventa più percussivo, sì, sì. Vai, vai Flavio, vai, scusa. No, stavo appunto sempre riferendomi ai denti, che sentivo appunto questo effetto, cioè il dente in questo caso si sente, perché poi alla fine anche riesci a battere i denti, forse con un effetto a questo punto. Eccolo, no? Qua. Ecco qua, no, perché tu me l'hai fatta vedere. Sono i miei, adesso, comunque sì, sono sì, proprio sono miei i tuoi, denti, quindi, che ho campionato e messo qui. Bellissimi, presi in un giorno di freddo, esatto. Fuori con la maglietta manica corta, no? Quindi, benissimo, quindi denti, un'altra traccia che più tardi ascolteremo anche nella versione da disco. Allora, adesso proseguiamo con la programmazione musicale. Cosa tocca? Un altro pezzo live, Deborah. Pezzo live. Sì, sì, sì, assolutamente un altro pezzo live, un altro pezzo che non abbiamo mai sentito. Sì, questo si chiama November 10 ed è un pezzo che ho scritto, visto che parliamo di medici, dentisti, ho scritto dopo un'anestesia totale, però stavolta. E un'anestesia che mi ha lasciato, diciamo, delle immagini e che sono entrate in questa canzone. I cannot tell if it was the sun or the moon, just over the mountains that morning. Cannot tell if it was the moon or sun, just over the mountains that morning. Just below the cracks of an asphalt sea of clouds, just below the cracks of a white slip without dreams, I did not need 1 hour, 1 day long. I did not need 1 hour, 1 day long. My My green meadow was covered by the black cloak. My green while sleeping, while trusting the unconscious, while sleeping, Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. November 10 si intitola questo pezzo che ci ha voluto suonare Petrina qui in studio, un'atmosfera surreale con un tocco di piano inquietante e profondo. Ci stiamo chiedendo cosa è successo in quel momento, che eri in anestesia totale. Allora, dove sei andata? Dunque, intanto ero all'ospedale di Bolzano. Sì. Allora, prima di farmi la punturina o il gas, non so bene come sia l'anestesia, l'anestesista mi ha detto: bene, adesso devi pensare a qualcosa di bello. Ma non ho fatto in tempo a pensare a un prato, che già non c'ero più, no? E quando mi sono svegliata ho avuto proprio questa impressione di aver avuto addosso un mantello nero, però che mi proteggeva. E la sensazione era bella, come essermi affidata alle mani di sconosciuti, ma con, diciamo, totale così, proprio, come si dice, agio, insomma, benessere. E poi però ho avuto altre visioni, nel senso che c'era il fumo dell'ospedale di Bolzano che annebbiava un po' il cielo, le montagne, e c'era un astro, non capivo bene se era la luna, il sole. Tipo un'esperienza extra corporale, diciamo, in questo caso. Se ne sentono sempre molti in questo genere. In questo caso la tua è diventata canzone, in altri è finita in romanzi, in qualche trattato, e in questo caso è finita in canzone. E quindi, diciamo, c'era questa luna che mi perseguitava, poi anche quando sono tornata a casa qui appunto a Padova, c'era questa luna sempre che mi comunicava, mi diceva delle cose, allora ho scritto questa canzone. Potrebbe essere una suite, una mini suite questa qua, che si potrebbe allungare a dismisura. Sì, anche perché mi aveva anche... Sono delle schegge impazzite, sono delle schegge. E se mi permette, Maurizio, anche in certe situazioni sembrava anche di collocare un po' di vena prog, no? Ecco, di qualcosa è di, vero, sì, di queste variazioni di ritmo incostanti, si possono dire, no? Dove c'è il delicato e proprio il progressivo, poi che ti... Sì, potrebbe diventare un pezzo di 20 minuti, sì, perché esattamente. No? Qualcuno potrebbe anche avvicinarti a Björk in questo momento. Ah, però. Qualcosina sì. Nella fase iniziale del pezzo, poi no, poi è cambiato, poi sei diventata Petrina a tutti gli effetti, lo sei ancora, lo sei tuttora, però qualche momento alla Björk, secondo me, io l'ho sentito, secondo me. Comunque posso dire che sono in soggezione mentre suono, perché? Maurizio ha un metro che mi guarda proprio tutto quello che faccio. Perché lui... Non succede mai, perché di solito nei concerti c'è più distanza. Sì. In realtà mi affascina per quello. Volevamo oscurarlo, non ci siamo ancora riusciti. Ecco, per cui rimane là, cioè, il posto è suo, è quello, e ormai se l'è da un po' di tempo, aggiudicato da un po' di tempo questa parte. Da guai sedersi nella sede di Maurizio, potrebbe arrabbiarsi. Non lo fa mai. Benissimo, allora abbiamo ascoltato questo bellissimo sogno, questa esperienza al di fuori del normale che ha vissuto Deborah. Sarei curioso di leggere anche tutta la traduzione in italiano di tutto quello che hai cantato. Allora, 22:10 minuti primi, sempre con Blu Radio Veneto, ricordiamo ancora ai nostri ascoltatori che questa è una trasmissione che si può ascoltare sia a livello tradizionale, quindi con le frequenze via etere, poi ancora tramite il nostro streaming audio collegandovi al sito internet www.bluradioveneto.it e andando all'interno della pagina riservata a Petrina potrete ascoltare la diretta anche in questa forma. E poi ricordiamo anche la presenza della nostra pagina Facebook, quindi potete andare anche su Blu Radio Veneto Rock Wave e lasciare anche il vostro saluto. E allora, dopo questa esperienza live è giunto il momento di ascoltare un altro pezzo, tanto per vedere quelle che sono le differenze di quello proposto dal vivo e quello proposto da CD. In questo caso ascoltiamo questa Denti, eccola qua. Guarda i miei denti, guardami dentro, presente passato imperfetti, i miei denti scavati, lisciati, modellati dal tempo, instabili, spostabili, in fuga d'angelo. Attenti i denti, turbamenti, rodimenti, pentimenti, tentennamenti. Attenti i denti, che masticano, sibilano, scrivono, ridono, corrono. Sono come tu sei, sono come tu sei, più taglianti di una mano, più incisivi di una rima. Sono come tu sei, sono come tu sei, sono i miei denti, non conoscono rimpianti. Lasciano il segno, pagano il pegno di ore che volte a mordere un sogno, a sfidare le forze di gravitazione, a sputare gli avanzi di un'altra illusione. Attenti i denti, se li sogni sono segni, se li perdi è troppo tardi. Attenti i denti, protetici, bisbetici, dietetici, eretici, mimetici. Sono come tu sei, sono come tu sei, indomabili, insaziabili, giudici, fragili, amabili. Sono come tu sei, sono come tu sei, sono i miei denti, un dì saranno santi. Guardami dentro, presente, passato, imperfetti, i miei denti macchiati di rosso, ballano il funky, dichiarano guerre con le tibie bianchi, dichiarano guerre con le tibie bianchi, dichiarano guerre con le tibie bianchi, dichiarano guerre con le miei. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live! E così ci siamo goduti la differenza tra quello proposto prima in versione acustica e questo da disco, appunto. Denti si intitola, abbiamo sentito anche alla fine la dentiera, diciamo, elettronica incorporata. Mirko faceva una considerazione su questo pezzo, adesso lo puoi dire in diretta, vicino al microfono. Sì, ricordiamo ancora i nostri ascoltatori, Mirko Di Cataldo, chitarrista. La velocità. Una cosa sulla velocità, sì, che l'abbiamo suonata come se fossimo di fretta. Molto di fretta, secondo me. Veloci, non abbiamo fretta. Sì, è anche un'esperienza un po' jazz e molto funky, se vogliamo. Sì, nel disco, sì. Sicuramente, anche grazie al contributo di Piero Bittolo Bon, che era il sax della canzone che abbiamo sentito prima. Canzoni. Che qui suona il basso e lui si è rivelato uno strepitoso bassista funky, infatti suona in un gruppo che riarrangia dei pezzi dei Meters, e qui tu li conosci sicuramente, e quindi sì, ha dato lui questo, diciamo, questa vena funky al pezzo, che ci voleva, una delle tante facce del disco. Sì, vero, vero, Deborah? Assolutamente sì. Ok. Anche perché abbiamo ricordato prima Deborah Petrina, artista sperimentale anche, se vogliamo, impegnata sul fronte jazz, sul fronte pop rock elettronico, chiamiamolo così, e poi ancora questo spirito funky, quindi una serie di come dire, percorsi musicali anche diversi in certe situazioni, che però in questo disco si incontrano. Allora, Deborah, magari poi non abbiamo più il tempo di ricordarlo dopo. Uno dei pezzi all'inizio del tuo CD ha anche una collaborazione importante da un punto di vista di danza, di esperimenti di danza. In questo caso parliamo di questa di Sara Viktorovic, sì. Difficile da dire il cognome, comunque. Sì, perché è di origine polacca il cognome. Lei è una fantastica coreografa, danzatrice, che ho conosciuto in un workshop a Bassano per estate. E mi ha voluto, diciamo, con lei a lavorare a dei suoi progetti come performer, usandomi in tutti i sensi. Tipo, mi faceva cantare in posizioni difficilissime, mi faceva correre, urlare. È stato molto, diciamo, mi ha molto provato, però è stata una cosa veramente intensa lavorare con lei. E durante questo lavoro sono venute fuori queste parole che lei usava per darmi delle indicazioni nei movimenti e nell'improvvisazione vocale, e quindi da questa collezione, diciamo, di parole è nata una canzone che è The Invisible Circus, che era tra l'altro il titolo anche della performance. Benissimo, poi i testi, appunto, e queste, diciamo, ascolti potete naturalmente farli da voi, carissimi ascoltatori. Ricordiamo ancora una volta che il disco di Petrina è disponibile, appunto, oltre che nel sito internet nuovo di Deborah, anche tramite Bandcamp, però basta anche semplicemente Facebook. Basta semplicemente cercarlo su Google, scrivere Petrina. Prima, parlando appunto di internet, si voleva anche dire che sei presente anche in forma video in certe situazioni, in particolare anche per quella che è il video, si voleva ricordare prima, di Denti, il video di Denti, che ha una struttura un po', come dire, sul fuori di testa, no? In questo caso, no? Dove ci sono dei personaggi che ti fanno arrabbiare in certe situazioni. Sì, e in realtà è sempre lo stesso attore, sì. che riveste vari ruoli, sì. Ed è un attore padovano, tra l'altro, si chiama Marco Tizianel. Bravissimo attore, che in persona appunto individui a me ostili e contro cui io mi accanisco, perché secondo me non fanno bene il loro lavoro, o comunque mi fanno dei torti, degli sgarbi. Quindi io reagisco in maniera molto, di solito, violenta, sono molto reattiva, cosa che in effetti è anche un po' vera, sono un po' reattiva nella vita, e c'è sempre un losco figuro a seguirmi e a prendere nota di quello che faccio, che è appunto Mirko Di Cataldo, nelle vesti di un improbabile burocrate con tutti i capelli impomatati, vestito in grigio. Sembrava quasi un personal trainer che seguiva un personaggio molto losco. Comunque è simpatico da vedere, ricordiamo appunto su YouTube è presente, quindi basta scrivere Denti Petrina. Beh, in realtà se si va nel sito ufficiale si trova subito il video, la prima cosa che c'è in home page è proprio il video, si vede subito la prima scena di questo peperone marcio, sì, che sì, io sì. riporto, anzi butto in testa al Foltivendolo. Benissimo, e poi anche del cappuccino diciamo buttato sulle spalle del barista causa capello, un capello lungo che beh. Vabbè, quindi situazioni davvero diciamo forti sotto tutti gli effetti. Bene, allora 22:20 sempre con la programmazione di Blue Time Live, sempre con Flavio Bilato, Maurizio Calzavara. Questa sera ospite in studio c'è Deborah Petrina, è venuta per presentarci questo nuovo lavoro che appunto porta il suo nome, Petrina. Ancora un ascolto da CD di quello che è la traccia numero 4, e quindi diamo il benvenuto anche a Niente dei Ricci, eccola qua. E il tuo niente sopra di ricci nel tutto attraverso un cunicolo inciso, passando dal sonno a una stanza e tu sulla soglia ti favi. Il tuo niente di ricci nel tutto attraverso un cunicolo inciso, passando dal sonno a una stanza e tu sulla soglia ti favi. Il tuo niente di ricci nel tutto attraverso un cunicolo inciso, passando dal sonno alla stanza e tu sulla soglia ti favi. Il tuo niente di ricci nel tutto attraverso un cunicolo inciso, passando dal sonno alla stanza. Blue Time Live Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato questa canzone, si intitola Niente dei Ricci, protagonista Deborah Petrina qui con noi in questa serata. Allora Deborah, Niente dei Ricci riguarda un po' forse il tuo passato, quando eri, certo, quando eri bambina, quanto, sì, quando quanto ho capito, in queste atmosfere, sì, così rarefatte. Si parla di inverno in un paese di campagna, in una casa grande in cui le camere erano freddissime, gelate. E quindi io mi svegliavo la mattina in queste camere gelate con ancora addosso gli incubi notturni che facevo un po' l'età in cui si pensa alla morte, si cade in questo pozzo, io mi sentivo cadere sempre più giù. E quindi alla mattina da queste camere gelate, fredde, buie, passavo alla cucina dove era invece mia madre, che era un ambiente caldo invece riscaldato, luminoso, e quindi è questo passaggio, questa porta che divide questi due ambienti, in cui all'altezza del mio naso da piccolina ci stava proprio il buco della serratura, che è questo di cui parlo, il cunicolo inciso è proprio il buco della serratura. E questo passare da appunto un mondo così pieno di terrificante a un mondo invece che amoroso, pieno di amore. E tutto questo in un niente dei ricci che sono io bimba, che ancora non sono niente in potenza, c'è qualche cosa ma c'è ancora niente in atto, insomma. Questa dimensione da camera, inizio da malinconico, decadente, sì, e poi questa corsa continua, questa corsa, diciamo che ci sono due anime, una più serena e una più invece inquietante, cioè questo sbattere dei coperchi sulle corde del pianoforte, un momento abbastanza diciamo forte, che poi dal vivo viene reso ancora di più, perché quella parte si sviluppa in quartetto con una quartetta d'archi praticamente, no. Facciamo in quartetto proprio col basso, la batteria, non quartetto d'archi, no. Andrebbe bene anche quello all'inizio, la facciamo in versione più rock sì. E diventa bella tosta in questo caso. Tu mi hai detto che maltratti tra virgolette anche un po' il pianoforte, perché ci tiri le corde dentro molte volte, no? Oppure giochi col martello. Sì, sì, beh, diciamo che le percuoto, le si percuote, possono, sì. Col martello magari anche no, però sì, c'è, cioè uno scalpello lo uso, sì, però sì. È con i bordi smussati, quindi non gli faccio sì, messo, male. Lo pugnalava, ma era la tastiera quella là, un po' di tempo fa, esatto. Molto prima di te chiaramente. No, però appunto è visibile anche su vari filmati postati su internet, sì, che ti vedono appunto protagonista anche di questo. Esatto, è vero, questa sì. Hai ragione. Ci sono, in realtà ci sono delle foto fatte da un amico che il pianoforte li aggiusta, sì, e li accorda anche, che mi ha spinto lui a dare fuoco a dei martelletti, mi ha tirato addosso delle cose del pianoforte, mi ha fatto fare delle foto dentro questi pezzi rotti di pianoforte, ed è stato molto molto creativo. Benissimo, tanto per dire appunto che il pianoforte lo sai suonare naturalmente col cuore, anche se ogni tanto subisce diciamo tra virgolette delle violenze, però diciamo che sono sempre delle violenze di esperimenti acustici, come tu conosci e sai fare, perché diciamo che quest'album è tutto, diciamo, un esperimento sonoro. E allora, musica sono... contemporanea, sì, prego. Allora. Luigi Nono corre? Sì, beh, qualcosina? Dai, possiamo concedere? Sì, anche ecco, concediamo. John Cage. Anche John Cage, sì, soprattutto sì, John Cage. Quanto ami John Cage? Mi piace, ti piace molto. Forse più, ancora più la persona della musica, ah, perché okay. La persona irraggia proprio una volontà di curiosare, di sperimentare, che è una cosa che mi, diciamo, rimane molto un riferimento mio. Quante volte hai sentito quel famoso disco in cui si lui giocava con le radio. Sì, uno storico disco di evoluzione sonora. Tra l'altro è stato anche fatto dal vivo proprio qui a Padova poco tempo fa, con tantissime radio, i bambini delle elementari che bellissimo, una cosa meravigliosa. Ebbene, anche perché è molto diciamo difficile e complesso ascoltare un disco per intero di John Cage, perché ci regala sempre delle emozioni. Bisogna stare attenti a ogni minimo movimento per carpire qualcosa del suo prodigio musicale. Allora, noi dovendo ampliare la nostra trasmissione, anzi ne approfittiamo, salutiamo Alberto Prisco che doveva essere con noi in questa serata, per altri impegni è lontano ma ci sta seguendo, e quindi lo salutiamo, lo ringraziamo anche per la parte di organizzazione per questa serata. E allora noi andiamo avanti fino alle 23. Quindi fino alle 23, chiedendo a Deborah di farci un altro pezzo in acustico, sempre tratto dal tuo nuovo disco, Deborah. Sì, mi tocca farlo. Ti tocca. Non ho tarato i suoni, speriamo che vada tutto bene. Va allora, tutto benissimo. Io vi propongo I Fuochi d'Artificio. Benissimo, eccoli qua. E li faccio anche da sola. Queste a naso in giù non fanno rumore, salutano da dietro il vetro, dal paese in festa oggi, dal paese in festa. Si levano le guance di una bambina, le tengono intatte, le soffia in su, da dove cammina la testa larga, da cielo e guarda la stupidi all'insù, fuoco d'artificio, mistero a caso e a cuore, non fanno rumore, non fanno rumore, non fanno rumore. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Deborah Petrina con i fuochi d'artificio e fortuna che non se l'era preparata, perché esattamente come diceva prima devo farla da sola e non mi sono preparata, per cui no, veramente eccezionale questo pezzo. Altre cose, c'erano questi organetti iniziali, sì, che a preludio di quella che era la sagra paesana della serie Signore e Signori, giù il gettone si parte, esatto, per un altro giro, e poi alla fine della festa, quando col naso lì in su si, esatto, guardano questi fuochi d'artificio e quindi si fugge un attimo da terra per andare verso il su e vedere questi petali, questi... Anche questa è una canzone, ha una storia. Allora ero partita da Treviso, prendevo un Ryanair che mi portava a Düsseldorf, perché mi avevano, diciamo, c'era una coppia di coreografi che volevano testarmi per un loro spettacolo, perché mi avevano visto in azione, solo che io mi ero appena, diciamo, sfasciata un braccio, avevo un gesso che avevo tenuto un mese, me l'ero appena tirato via, e quindi avevo un braccio, diciamo, moncherino, sì. E quindi questo aereo è partito ed è passato sopra Cittadella. E proprio il giorno della fiera annuale che si tiene lì dal Medioevo, che è una fiera proprio bestiaria, no? Sì. E quindi è stato veramente un colpo al cuore, perché ho visto questi fuochi d'artificio che ero abituata a vedere sempre a naso all'insù, perché da bambina andavo alla fiera e poi anche da giovinetta poi ci andavo magari per conoscere i primi ragazzi. Quindi vedere questi fuochi mi ha un po' fatto ripensare alla mia vita e anche quello che stavo facendo in quel momento. Stavo quasi un po' abbandonando il mondo della musica per buttarmi in un lavoro di danza molto corposo, perché si trattava di una produzione che mi avrebbe impegnato per molti mesi con questo moncherino. e poi vabbè, poi ho preso la decisione invece di non accettare questo lavoro di performance, di danza, e di concentrarmi anche perché musica. Tu sei nata qui a... Sei nata a Padova, a Cittadella, sì, però sei stata un po' cittadina del mondo, quindi no, hai viaggiato, sei stata residente, sì, in, diciamo, altri luoghi. Sì, per pochi periodi ho vissuto un po' a Budapest, perché ho frequentato l'accademia lì, e poi vabbè, ho girato un po', ma non, diciamo, proprio residente, non sono stata in altri posti. Certo. Sono stata di più, sì, nei nostri paesi, paesoni, paesotti, Venezia. Tu hai citato, Padova, citato Budapest. Un critico ha scritto su questo pezzo che è un assieme, una fusione tra Nino Rota e le danze macabre di Tom Waits. Wow. L'hai scritto tu? No, non l'ho scritto io, l'ho scritto critico. Io cito testualmente, sono d'accordo con Bellissimo. La danza macabra di Tom Waits. Bellissimo. Ci sta molto, secondo me. E Budapest e le danze ungheresi, che possono essere anche macabre in alcuni momenti, ci stanno. Sì, sì, sì, sicuramente. Bartok, le danze ungheresi, come no? Certo, Kodály, sì, sì, sì. Sono due autori che io adoro, soprattutto Bartok, il primo. Anzi, avevo anche una mezza idea di prendere dei suoi pezzi, trasformarli un po' in canzoni, una cosa che un'idea che ho da un po' di tempo. Che farai sicuramente. Vediamo se avrò le capacità. Sì, sì, ce le hai sicuramente. Sì. Lo aspettiamo, mi raccomando. sicuramente, prossimamente, Petrina la troveremo ancora qui nei nostri studi, perché appunto ci ha messo troppa curiosità addosso anche per quelle che sono, diciamo, gli inediti che ci ha presentato in questa serata, che già lei ama suonare, però ancora non sono stati incisi e quindi non fanno ancora parte di un disco di Petrina. Ricordiamo che in questa serata stiamo presentando soprattutto l'ultimo suo lavoro, datato appunto il 2013, che porta il suo cognome. Quindi Petrina, come riconoscere quest'album in mezzo alle migliaia di copertine di dischi? Basta vedere una ragazza col viso dolce, coi capelli rossi sparati e con un ventilatore giusto davanti. Ti ha dato un certo fastidio fare le foto in questa, riuscire a tenere questo contegno con il ventilatore? Il ventilatore era là proprio perché faceva tanto caldo ed è mio, tra l'altro. È un ventilatore indiano Cinni, sì, che non ha nessuna parte di plastica, quindi pesa tantissimo e ha tipo la potenza, la forza 3, che ha una potenza pazzesca. E lì, in quel momento, in quella foto lì, io stavo cantando, perché sapete bene che se si canta davanti a un ventilatore la voce si distorce. Giocando. Quindi stavi giocando allo stesso tempo, sei riuscita a tenere gli occhi ben aperti nonostante questo. Perché mi stava facendo il servizio fotografico. No, perché voglio dire, col ventilatore davanti, difficile anche tenere gli occhi aperti. Benissimo, allora quindi abbiamo dato anche un messaggio video per come appunto raggiungere questo CD. Allora 22 e 41 minuti primi, ancora un pezzo da disco. Questa volta ascoltiamo un pezzo che vede come protagonista iniziale il già citato artista di calibro internazionale David Byrne. Eccolo qua. Allora ce l'ascoltiamo, si intitola Lina. Non serve l'amore, un saluto. Non serve l'amore, un saluto, un saluto, un saluto, un saluto, un sul viale della stazione che Mario doveva partire, finita aveva la licenza, in caserma doveva tornare, il diploma, il lavoro, la naia, 10 anni sono lunghi da aspettare. Sai Lina, una cosa ti devo dir, non posso sposarti perché la casa ancora finita non ha e 1000 più debiti ho da pagare. Sai Mario, una cosa ti dico anch'io, non serve all'amore un salotto, la nostra storia finisce qui e lui come un pesce restò, e lui come un pesce restò, e lui come un pesce restò, non serve all'amore un salotto. Non serve all'amore, non serve, non serve all'amore un salotto, non serve all'amore, non serve, non serve all'amore un salotto, non serve all'amore, non serve. noi senza parole. A quest'età fidanzati non troverò in Svizzera. Emigrerò, forse un lavoro lì troverò. Sorgi quel giorno del 63, cucisti un prendisole rosso a poire, il fiume domani ti attenderà. Uscisti di casa più bella del sole e quella donna che ti domandò: Lina, dove incontro il tuo uomo? E appena sceso dal treno, ecco com'era caldo quel giorno del 63. Ma davvero, ecco com'era vero che lui stava lì. Mia, ero di guardia e all'improvviso io sono scappato. Non potrei vivere senza di te. Noi ci sposeremo nel 63. Noi ci sposeremo nel 63. Preso il treno, mi ricordo, la sua sera ho preso il treno per tornare in caserma a Udine, perché era anche, era ufficiale di giornata, perciò aveva già abbandonato per un giorno intero la caserma. Quando è arrivato è stato denunciato e si prese anche qualche giorno di prigione. Nella sua fedina penale rimase questo segno, però a settembre poi ci siamo sposati. Basta così. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Veramente una canzone anche toccante, poi magari avendo avuto così una premessa prima fuori dalla diretta con Deborah si capiscono anche quelle che sono le emozioni che si rivivono in questo pezzo dall'inizio, perché c'è la collaborazione con David Byrne che ha registrato questa prima parte, all'amore non serve un salotto, eccolo qua, che poi viene più volte ripetuto come un disco che salta, no, in questo caso, e poi verso la fine con la voce della signora che aveva vissuto direttamente questa esperienza, quindi la voce di Lina. Chi è Lina, Deborah? Allora, Lina è mia madre, ecco. E questo racconto, come dicevo prima a Maurizio, gliel'ho estorto facendole credere che facevo delle interviste per un documentario sulle carceri, perché non volevo dirle che sarebbe andato in una canzone. e quindi poi per lei è stata una sorpresa quando ha sentito la canzone. E, no, per me è stata anche una sorpresa sentire questa storia di mio padre che molla il posto di guardia alla caserma e corre da mia madre, perché mio padre è sempre stato una persona molto ligia al dovere, assolutamente un preside di scuola, quindi proprio veramente bisognava rigare dritto, alle tre si cominciava a fare i compiti. Quindi sentire questa storia, l'ho sentita proprio poco tempo fa, mi ha veramente aperto un mondo su mio padre, no? Certo. Su questa sua follia, su questo suo impeto passionale, no? Lascio addirittura una cosa così, rischio anche di farmi la galera, rischio la fedina penale per amore. Per amore. All'amore non serve un salotto. Come mai questa? Perché mio padre diceva che non si potevano sposare perché la casa non era finita, il salotto, in particolare il salotto non c'era ancora. E quindi un rimandare. Esatto. Mentre invece la mamma, da come si è potuto sentire le note finali, ha detto poi alla fine però ci siamo sposati. Sì. Quindi alla faccia della fedina penale. Esatto. Di quei giorni di CPR che si era diciamo beccato a quel tempo. Sì. E però insomma tutto è finito che... e poi sei nata tu. Sì. Beh, musicalmente è un pezzo molto bello, è un pezzo musicalmente più accattivante. Mm-hmm. Più, è una ballad. Mm-hmm. Praticamente. Sì. Un pezzo romantico tra virgolette. Sì, ecco. sì. Non è attonale, la melodia si sente. Sì, è molto una melodia quasi popolare. Esattamente. No? Anche gli strumenti, ho usato la fisarmonica, il violoncello, a parte l'elettronica, diciamo che è un po'. Sì. Il tuo vezzo. Il vezzo, sì, una cosa che tra l'altro l'ha fatta anche lui, anche qui un padovano fantastico, Carlo Carcano, che è un musicista poliedrico, perché è stato vocal coach di X Factor, ma anche compositore elettronico, sperimentale, sopraffino. E quindi ecco, c'è un aspetto folk un po' elettrizzato. E perché a noi è piaciuta molto, io ad Alberto Prisco abbiamo deciso di lanciarla per un mese a questo pezzo. Fa molto piacere. Sì, così fare un lancio del disco con questo pezzo praticamente. Assolutamente un'atmosfera anche molto, molto lineare, diciamo che potrebbe essere... Lineare, ecco qua. Quindi potrebbe essere anche un singolo per appunto presentare la musica di Petrina. Continuiamo, visto che il tempo stringe, mancano solo 8 minuti, però facciamo in tempo ad ascoltare ancora un paio di canzoni. Una canzone, una dal vivo e una poi in studio. Prima salutiamo e poi facciamo ascoltare anche un ultimo pezzo. Allora, in questo caso ancora una sorpresa, sì, Deborah. Vi propongo Ospitale. Si può ballare, in questo posto non si può cantare, difficilmente si riesce a dormire, ma tutti imparano ad aspettare. Allena il cuore a battere in apnea, dalla TV scende lenta l'anestesia. E quindi la mia mente vaga oltre i confini, chiusi da muri, corridoi e cuscini. I'm posto, cosa resta da fare? Ognuno nel lettino bianco come al militare. Ma qui non puoi giocare a carte nelle sere che scorrono immobili a mare. Vietato il sasso, vietato il sole, l'allegria. Nella penombra si dice meglio una bugia. Quella parola giusta è che fa da panacea. Dalle labbra scende lenta l'ipocrisia. L'ipocrisia. E quindi la mia mente vaga oltre il confine, chiuso da flebo, infermieri e medicine. Osservo tutti quei dettagli osceni e intanto il sonno mi traghetta ormai al domani. Al domani. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Altro pezzo inedito che abbiamo ascoltato anche noi per la prima volta, questo ospitale, lei è Deborah Petrina accompagnata da Mirko Di Cataldo. Ospitale si intitola questo pezzo ed è un racconto molto forte di quello che si vive in sì. ospedale. Mi è successo sì. proprio poco tempo fa di suonare in un reparto di oncologia a Vicenza, all'ospedale di Vicenza. E quindi dopo è nata questa canzone, insomma, che tra l'altro è in versione doppiamente inedita, perché solitamente la faccio alla chitarra con dei loop che mi creo. Invece, vabbè, qui non avevo tutti i pedali, quindi l'ho fatta così col pianoforte. Come marcia opprimente, praticamente. Un po', sì. Un decisamente po'. Opprimente. Musicalmente, Mirko ti dava l'appoggio che suonava in modo percussivo ancora una volta la chitarra, sì. cioè sostituiva la batteria, praticamente. Sì, sì, stasera. Sì. Quindi, che non c'è, tra l'altro, che non la c'è, versione però, con ma ha fatto un ottimo lavoro anche con la chitarra, Mirko, decisamente. Benissimo, quindi senz'altro interessante anche questo pezzo ospitale che ospitiamo all'interno di quello che è il podcast che mettiamo a disposizione dei nostri ascoltatori, così da tenere assieme a quello che è il disco di cui vi abbiamo dato le coordinate per come fare per entrarne in possesso, quindi tra tutti anche il sito internet di Deborah, vogliamo ricordarlo ancora una volta, www.deborahpetrina.com. Benissimo, quindi ecco, entrate numerosi in questo sito, quindi anche per vedere il video citato prima di Denti e mille altre cose che Petrina vuole appunto comunicare tramite il sito. Allora, noi ringraziamo Deborah Petrina per essere stata nostra ospite, per essere ritornata. E grazie, sai, a voi, è stato molto piacevole. Sai che sei sempre graditissima. Salutiamo anche Mirko Di Cataldo, grazie di essere venuto qui, di averci tenuto compagnia. Ciao, con la tua chitarra. Pochi interventi vocali, ma ti abbiamo sentito col cuore, ma giusti, certo. Benissimo. Allora, noi salutiamo e quindi lasciamo comunque un'ultima canzone per congedarci da Deborah e dalla sua musica, ricordando ancora una volta è uscito nel 2013, proprio in aprile, questo disco, si intitola Petrina ed ha queste 11 tracce di musica sperimentale, jazz, un po' funky, un po' prog, un po' di tutto, il tutto condensato in una grande eleganza musicale, quella di Petrina per l'appunto. Allora, grazie Deborah ancora di essere stata con noi, e adesso in conclusione ci sentiamo quel pezzo Sky Stripes in August, quella in versione orchestrale che abbiamo citato anche prima, con riferimento anche a Bischoff, questo bassista che poi ha costruito con queste registrazioni prese qua e là con la bicicletta, si diceva, no? E non solo con la bici. Benissimo, ancora grazie Deborah. Grazie a voi. Grazie a Mirko. Grazie. E quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Cazzavara, il solito grande e caloroso ciao. Dopo di quest'ultima canzone di Petrina vi lasciamo con una buona programmazione musicale di Rock Wave. A tutti, buonanotte. Ciao. Ciao. But they can't.